amor. Per sognare con te, per soffrire con te, vivrò per quest'unico amor, per poterti adorare e il tuo nome invocare. Così oggi, sempre così, per vivere ancora nei tuoi occhi e nel cuore, do, vivrò per amare il tuo amor, per sognare con te, per soffrire con te, darti tutta la vita, darti tutto di me. Sempre così, per vivere ancora nei tuoi occhi e nel cuore, tu, vivrò per amare il tuo amore, per sognare con te, per soffrire con te. Saprò darti la vita, darti tutto di me.